sono una bomba vispa intelligente, ed un certo fascino latino decadente, sull'opinione pubblica un certo ascendente, metto a tacere i dubbi della gente, perché sono precisa e quindi attraente. Il mio risultato è spesso deludente, però ho un gran bel nome, molto attraente, perciò i capi di Stato salto sempre in mente, se del popolino lo scontento è imminente, perché sono precisa e quindi attraente. Non casco mai sugli inermi civili, ma stanno dovunque i nemici vili. Dribblo ospedali e sfatascio cecchini, rincorro i tiranni e risparmio i bambini. Sì, ogni tanto faccio saltare due o tre scuole, asili, nido, alberghi, stampa internazionale, ma capita di rado, al massimo a Natale, saranno neanche 80 punti percentuale, perché sono precisa ma anche un po' letale. Che la guerra ci vuole, ed io in fondo non sono neanche la fine del mondo, per quello c'è mia zia Gian Federica, di mestiere e passione una bomba atomica. Sì, non casco mai sugli inermi civili, ma stanno dovunque nemici vili. Dribblo ospedali e sfatascio cecchini, rincorro i tiranni e risparmio i bambini. Oh no.